coletti. Non è più carnevale, ciascuno ha la vita normale, sta ritornando. Lei no, lei sta ballando. Oggi mercoledì, nelle strade del centro ciascuno col proprio tormento sta camminando. Lei no, lei sta ballando. Lei no, lei sta ballando. Lei non si accorge che la gente già sta soffrendo normalmente. Dicono tutti che è impazzita, ma in lei la festa non è mai finita. Oggi mercoledì non è più carnevale, ciascuno la vita normale sta ritrovando. Lei no, lei sta ballando. Non invidia l'infelice, felice nel suo mondo di pazzia, che lascia alle spalle il male, il peccato, il tempo perduto, l'amore sprecato. Oggi mercoledì non è più carnevale, ciascuno la vita normale sta ritornando. Lei no, lei sta ballando. Lei no, lei sta ballando. Lei no, lei sta ballando. Lei no, lei sta ballando.